L'Africa è il nuovo mercato di conquista per l'industria biotech. Le imprese che producono GM vorrebbero convertire all'ingegneria genetica le popolazioni locali, che basano la loro economia soprattutto sull'agricoltura tradizionale invece. Le multinazionali assicurano che il problema della fame del mondo sarà anzi risolto grazie ai maggiori ma non ancora provati rendimenti dell'agricoltura biotecnologica. L'opinione pubblica africana però sta sviluppando un'aperta ostilità alle biotecnologie per le loro implicazioni sociali ed economiche. Infatti, comprando i semi e i pesticidi prodotti dalle multinazionali, i contadini diventano schiavi degli interessi economici del nord del mondo e il guadagno per le popolazioni è ancora tutto da dimostrare. L'ostilità verso le biotecnologie è arrivata al punto che molti stati hanno chiesto che gli aiuti alimentari non contengano OGM. I paesi africani non rifiutano gli OGM per timori di effetti sulla salute, ma per evitare la loro diffusione nell'agricoltura. Infatti chiedono semplicemente che gli aiuti alimentari contengano solo semi già macinati e non contaminino le piantagioni non OGM. In Africa, infatti, la conservazione di una parte dei raccolti per la risemina è una pratica consolidata, ma la diffusione dei semi OGM renderebbe i contadini colpevoli di infrazione del copyright sulle varietà OGM, come è accaduta per Schmeiser in Canada, che per un inquinamento da polline trasportato dal vento occasionalmente ha dovuto lo stesso pagare $140,000 alla Monsanto più $230,000 di spese legali perché è stato ritenuto colpevole. Oltre 60 organizzazioni di contadini, attivisti e operatori della cooperazione hanno firmato la scorsa settimana una lettera aperta. Secondo le organizzazioni, Angola e Sudan subiscono pressioni da parte del Programma Alimentare Mondiale del governo americano che minacciano di diminuire gli aiuti alimentari verso i paesi che non accettano GM. Il Comitato per il Codice Alimentario Sangolano, che è la complessa serie di norme che in ogni paese regolano il settore alimentare, ha dichiarato infatti di voler introdurre nuovi regolamenti di biosicurezza per la vendita e il trasporto degli OGM, facendo seguito a una decisione del governo di bandire le importazioni di semi in granella. Anche il G8 intende sdoganare le biotecnologie presso i popoli africani. Nel quadro del NEPAD, un accordo tra gli 8 grandi e alcuni paesi africani, proprio in questi giorni è nato il Forum Africano sulla Scienza e la Tecnologia per lo Sviluppo, per promuovere la cooperazione tra i paesi africani in campo scientifico e tecnologico. Il Forum ha individuato 5 priorità per la verità piuttosto vaghe e scontate, che vanno dall'aumento degli investimenti alla creazione di centri di eccellenza. In un solo settore però il Forum sembra avere le idee chiare. Una delle priorità infatti riguarda proprio le biotecnologie. L'organizzazione intende creare consenso nei confronti degli OGM per evitare, citiamo testualmente, che gruppi politici interessati approfittino dell'incertezza e impediscano ai paesi africani di godere dei benefici delle biotecnologie moderne, con buona pace del principio di precauzione e dell'indipendenza economica e culturale di un continente. Si ha comunque l'impressione che la macchina OGM stia procedendo come un golem impazzito. Da una parte si spinge per vendere sementi a chi non ne ha bisogno, dall'altra si ammettono rallentamenti e dubbi. È notizia recentissima, per esempio, che la Monsanto ha deciso di non voler più commercializzare il frumento transgenico, nonostante gli ingenti investimenti effettuati perché si trattava di una ricerca abbastanza difficile. Il frumento era attualmente in vendita in Canada e negli Stati Uniti, ma vista la grande opposizione da parte degli agricoltori, dell'industria alimentare, dei consumatori e il rifiuto dell'Unione Europea ad approvare la varietà, ha finalmente deciso di ritirarla dal mercato, riconoscendo che le opportunità di mercato si sono fatte effettivamente meno attraenti, il che dimostra che organizzare una protesta, soprattutto se coinvolge tutti, dal produttore al consumatore, serve.